Pregare, pregare bene è una delle cose più belle e più difficili che si possa fare. È una delle cose che entrano dentro nell'anima se tu sei capace di gustare la preghiera, che, lo ribadisco per la millesima volta, non è anzitutto chiedere, chiedere, chiedere, ma è guardare, pensare, contemplare, riflettere, gustare il Signore. Gustate quanto è buono il Signore. E da questo punto di vista credo che il manuale più bello di preghiera sia il Messale, il Messalino. Con tutto rispetto ai manuali di preghiera che girano e fanno tanto bene, perché sono pieni di novene, sono piene di preghiere, che però se non stiamo attenti generano una mentalità un pochettino sbagliata. Io come esorcista mi sento fare tante volte una domanda: ma qual è la preghiera più potente contro Satana? E dico: il Padre nostro. Non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. E invece tanta gente, a furia di leggere la preghiera di San Benedetto e quella di Madre Teresa, quella, tutte bellissime, non va a cercare nel Vangelo. Ora, io oggi vi voglio ancora una volta, l'ho fatto altre volte, ma lo faccio anche oggi, voglio prendere una orazione, scomporla, per farvela gustare. La prima orazione oggi diceva: con la parola del tuo Vangelo tu insegni alla tua Chiesa, oh Dio. Ecco qui già le prime parole che mi danno ragione. Con la parola del tuo Vangelo tu insegni, oh Signore. Van bene tutte le preghiere, ma beato colui che è capace di gustare il Vangelo e la liturgia, che è zuppa, inzuppata nel Vangelo, nella parola di Dio. Con la parola del tuo Vangelo tu insegni alla tua Chiesa, o Dio, che cosa insegni? Insegni a gustare le realtà sublimi ed eterne cui oggi è sceso il Salvatore del mondo. Quindi se noi vogliamo gustare l'ascensione, il Signore Gesù che ritorna alle realtà sublimi ed eterne del cielo, beati noi se riusciamo col Vangelo, se riusciamo con la liturgia a entrarci dentro. Scopriremo, anzi, gusteremo. I verbi sono importanti, eh? Gustare le realtà sublimi al di fuori di ogni nostro pensiero ed eterne soprattutto, cui oggi è asceso Gesù. Punto e virgola. Donaci di le orazioni, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto, almeno nel rito ambrosiano di cui sono un tantinino più esperto che non quello romano, le orazioni sono sempre divise in due parti. Prima si loda Dio per il mistero che si celebra. Qui è l'ascensione, si parla di Gesù che ascende al cielo. Se fosse una messa sull'Eucaristia, si sottolineerebbe il sacrificio di Cristo. Se fosse invece un altro mistero, il mistero pasquale, si sottolinea. Prima si sottolinea il mistero che si celebra. Nella seconda parte si chiede, si domanda: donaci di contemplare nell'intelligenza della fede la gloria di Cristo risorto. Sì che nella preghiera anche nostra si domanda, ma si domanda non i nostri piccoli problemi, si domanda il regno di Dio. Donaci di contemplare nell'intelligenza della fede, molto bello anche questo passaggio, quando si dice, ma in paradiso, per l'eternità, che cosa si fa? Si risponde, una risposta semplice, ma che scombina la gente, contempleremo la bellezza di Dio. Ho sentito qualche buon tempone, diceva bene, quando l'abbiamo belle guardato per un po', e poi l'eternità è lunga, eh? No. Contemplare con l'intelligenza della fede. Io credo che tutti voi abbiate sperimentato che la vera bellezza, oltre a essere quella estetica del corpo o della bellezza della natura, la vera bellezza è il contemplare la bellezza interiore. Per esempio, della natura. Non basta fare una bella foto per contemplare la bellezza delle montagne o un panorama del mare, ma se uno è capace di immaginare, di entrare dentro e di dire, ma cos'è il cielo? Cos'è la terra? Cos'è l'uomo? Quanti milioni di esseri, di razze diverse, di animali esistono al mondo? Amici, non so se siete abituati a pregare anche così, io ve lo sto suggerendo. L'intelligenza della fede vuol dire entrare dentro, intus legere, leggere dentro, intelligenza. Cercare di capire le cose dall'interno, infatti una delle gioie più grandi è la conoscenza. Si potrebbe star qui a farla anche un po' lunga, no? Perché l'uomo va alla scoperta delle cose nuove, perché Ulisse è visto come il tipo dell'uomo che va alla ricerca, perché l'uomo desidera conoscere, perché c'è un gusto nel conoscere che non c'è nel possedere o nel nutrirsi o nel mangiare o nel godere. L'uomo è un essere spirituale. Sto dicendo cose un po' difficili, perdonate, ma qualche volta dobbiamo anche toccare questi temi. Donaci di contemplare nell'intelletto della fede la gloria di Cristo risorto, perché al suo ritorno possiamo raggiungere le ricchezze sperate. Anche qui bisognerebbe andare ancora avanti. Qual è la gloria di Cristo risorto? Qui occorrerebbe essere illuminati dallo Spirito Santo e un pochino entrare nella vita trinitaria. Peccato che noi meditiamo poco queste cose. Peccato che noi chiediamo. Proviamo a chiedere i doni dello Spirito Santo. Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e santo timor di Dio. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.